Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. La voce in scena di oggi è quella di un pesce rosso. È infatti il simbolo della serie televisiva di culto degli ultimi anni. Tre stagioni tra satellite e digitale terrestre sui canali Fox e Cielo. Non è mai approdata alla televisione generalista, della quale fa una satira spietata. Il mondo delle fiction, la qualità infima, le raccomandazioni. La serie ha svelato gli inciuci tra politica e TV ben prima degli scandali delle intercettazioni. Ma pur essendo stata lontana dai canali più popolari, soprattutto grazie al passaparola in rete, è diventata un fenomeno dilagante, tanto che alla fine è arrivata al cinema. Stiamo parlando ovviamente di Boris e con noi oggi ci sono i tre autori e registi, Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. È stato un lavoro complesso, c'è una lunga tradizione di serie molto buone che diventano dei film non buoni. E quindi l'abbiamo presa come una sfida difficilissima e siamo tornati al cuore del problema, cioè ci siamo domandati che cosa ci ha spinto a fare la prima serie, diciamo, quindi parlare di cose vere usando la chiave della satira e dell'ironia, non prediligere, cioè non fare mai la scelta facile, cioè dire una cosa fa ridere ma non è vera. Tutto quello che raccontiamo è emblematico, cioè racconta secondo noi un pezzo del paese, un pezzo del nostro cinema e dei problemi, ma soprattutto del paese e del lavoro, di quanto è difficile lavorare bene in gruppo, cioè di quanto è difficile vivere in questo paese. Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un lato motore! Venga, allora se siamo giovani del regista. Occhi del cuore 3, 1 bis prima! Sì signori, avete capito bene, perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! C'è un problema con la qualità in questo paese. Commedie che vanno benissimo e che incassano moltissimo. Una cosa non avete previsto forse, solo che i cinepanettoni quest'anno sono andati meno bene. Comunque non si riesce a fare altro che la commedia in Italia. Ma in realtà poi il film Boris racconta anche le difficoltà di un'impresa qualsiasi in Italia, nel senso che ci piace, come dire, raccontare questa avventura cinematografica anche un po' come espediente per raccontare il nostro tempo, insomma, questo presente così complicato. E nella fattispecie è un paese dove è complicato fare le cose bene e anzi è mal visto, nel senso quando fai una cosa molto bene sembri mandare un segnale equivoco, allora gli altri dicono cosa cerchi di dirmi. E allora ci diverte vedere René Ferretti sotto tutte queste pressioni. Poi quello che è successo quest'anno è effettivamente abbastanza straordinario, nel senso che appunto è stato l'anno delle grandi commedie. La cosa peggiore sarebbe se questo desse origine a un filone interminabile solo di commedie. Speriamo che si vedano film di qualità di tutti i tipi, insomma. Sì, poi appunto noi, vabbè, insomma è quasi banale dirlo, però naturalmente... come dire, Boris è un tentativo di far ridere raccontando qualcosa, insomma parte innanzitutto dalla necessità di raccontare delle cose e poi in qualche modo si avvale della commedia, anche del delirio che è la commedia, no? Della follia della commedia, quindi è molto divertente raccontare in una chiave, anche in una, come dire, in maniera estrema delle cose che sono molto reali. Hai girato migliaia di scene brutte, René, non capisco qual è il problema. Non la giro. Ti ho già detto che la rete non transige, René. Tu devi fare quello che ti diciamo noi. Devi girare le scene come te lo diciamo noi, capito? Altrimenti sei fuori e noi prendiamo un altro regista. E io me ne vado alla concorrenza. Che minchia dice la concorrenza? Ma non hai capito un cazzo. Questo paese non ce l'ha una concorrenza. La concorrenza siamo noi. Guarda, chiudi gli occhi. Dai, chiudili. Ecco, adesso riaprili. Eccola la concorrenza! Nel film la troupe di Boris, in particolare René, si trovano alle prese con un film tratto dalla casta. Perché? Ma perché, innanzitutto perché sembrava realistico e rispettava un po' questa regola del filone, cioè è andato bene Gomorra, allora adesso facciamo la casta. E sembrava una cosa a cui nessuno ha pensato, in realtà... Chiunque abbia letto La Casta sa che è impossibile trarne un film di un qualche tipo, insomma, la storia andrebbe reinventata completamente. Sì, è una trappola, cioè era molto divertente, dice faccio La Casta, suona fichissimo, esatto. E poi non c'è nulla di narrativo, non ci sono personaggi, non c'è una storia, non c'è, è una sola. È uno specchietto per le allodole. È molto bello quello che dicono i miei colleghi, perché questo significa che sto Silvio Forever che partiva dalla Casta è una sola. Chiudi su lei preoccupata. F5. Basita. F4. Fondo al nero. F7. Sconcertata. Non ce l'hai. Non ce l'ha. Basita. Chi non avesse visto la serie? Abbiamo scritto questo film per dei fantomatici ideali spettatori francesi che non lo vedranno mai. Però erano nelle nostre menti, insomma, ci siamo rivolti a loro. Sì, infatti arriveremo magari un giorno in Francia e diremo l'abbiamo scritto per voi e loro ci diranno ma potevate farne a meno. Uno stato mentale degno di Stanis La Rochelle, comunque questo. Stanis, sì. Senti, abbiamo 10 minuti per girare due telefonate, me lo raccomando, e come vengono, vengono. Dai, perfetto. Scusate, non vi ho presentato Gioacchino Panè, Stanis La Rochelle, il nostro protagonista. Gioacchino non è importante, lui sta in America, ha lavorato anche con Kubrick. Sì. Kubrick? Sì. Posso essere sincero? Sì. Io considero Kubrick un incapace. Lo considero il classico esempio di instabilità artistica, abbia pazienza. È uno che affrontava un genere, falliva e passava un altro genere, come lo vogliamo chiamare? Poi anni e anni, tra un film e un altro, anni e anni di che cosa? Di profondo imbarazzo per il film precedente, abbia pazienza. La domanda è un po' da 10 milioni di dollari, ma com'è successo che Boris sia diventata una serie tanto di culto da aver creato un gruppo di persone che conoscono le battute, parlano con le battute del film? Guarda, io penso che Boris si sia inserito in un... come dire, in un mondo molto conformista, molto omologato, per cui talvolta sembra che non sia neanche di Boris il merito, non so come dire, bastava qualsiasi tipo di rottura già per far respirare un po' il pubblico, o almeno una parte di pubblico che non è contento della televisione e che cerca altro. Cioè Boris semplicemente perché racconta qualcosa di reale, perché non propone una visione edulcorata della famiglia, delle cose, dei rapporti umani, del lavoro, ma anzi con anche talvolta ruvidezza racconta la realtà. E parla il linguaggio della realtà, questo ha generato una passione. Poi appunto sì, la comicità, i personaggi, le trovate, ma credo che di fondo ci fosse un grande bisogno di questo, insomma, di qualcosa di reale. Sì, assolutamente d'accordo. Credo che abbia dato fiducia a tutti quelli che si sentono più esigenti della TV che trovano accendendo la televisione. E sono sbalorditi e sgomenti del fatto di dire ma come sono io solo, io con il mio fidanzato, fidanzata, il mio piccolo gruppo di amici con cui facciamo delle battute, abbiamo un modo di vedere la vita e di ironizzarci sopra che non c'entra niente con la marmellata televisiva, con gli abbracci, con i sorrisi, con le battute sentite 1000 volte eccetera. Perché quest'Italia non c'è? Ecco, finalmente accendi la TV e dici, oddio, altre persone esistono, c'è un mondo là fuori, esistono persone, o meglio, anche nel mondo della TV qualcuno, anche con grande fortuna, è riuscito a trovare lo spazio per usare nel racconto un po' le stesse morali, come dire, la stessa modo di fare, di pensare che c'è nella vita. Siamo tutti molto ironici, cioè l'Italia è un paese pieno di capacità di vedere il mondo con ironia. No, sono d'accordissimo. Io semplicemente, se dovessi vedere una differenza tra, metti, un programma pseudocomico che si fa su una televisione generalista, che si può vedere in televisione, un programma che più o meno deve far ridere, troverai spesso e volentieri delle battute non proprio divertentissime, e l'altro gli dice spiritoso. È una cosa che ti spiazza da una parte, perché non ti trovavo spiritoso, e poi soprattutto se lo fosse stato, dopo che hai detto spiritoso non rido mai più, e quindi spero che noi non lo scriveremo mai, perché significa che ce lo diciamo da soli, ecco questo. No, c'è una regola che tutti i guitti, i commedianti, da che mondo è mondo, sanno: se ridi tu non ride il pubblico. È una cosa basica, assolutamente notoria, diciamo. A meno che mai applicata, proprio la risata contagiosa dei Benigni, esatto, che arriva e ride già di per sé crea divertimento. Esatto. Però se no è meglio che un comico incazzato che un comico giulivo e di ottimo umore. Assolutamente, è vera 9 volte su 10, diciamo. In TV, nella nostra TV comica, diciamo, generalista, non è mai vero, tutti sono sempre di buon umore. Sì, sì, no, anzi, la parte comica di solito è affidata a qualcuno che entra ridendo in scena e non c'è proprio niente da ridere. Quindi forse la musica. Eh? La locura. La locura. La locura. Io parlo della locura, René. La locura. La pazzia, che cazzo, René? La cerveza, la tradizione. Oh, merda, come la chiami tu? Ma con una bella spruzzata di pazzia. Il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore, di paillette. Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte. E questo che devi fare tu. Occhi del cuore, sì, ma con le sue pappardelle, con le sue tirate contro la droga, contro l'aborto, ma con una strana, colorata, luccicante frociaggine. Spaliziata e allegra come ragazzo di lambada. È la locura, René, è ragazzo di locura. Se la chiappi, hai lì. La TV è come la mafia, non se ne esce se non da morti. Uno che conoscevamo ci è riuscito, però poi si è impiccato. Dopo la TV c'è il cinema, dopo il cinema la radio e poi la morte. Io ho un'ultima curiosità da radiofonica. Dove avete trovato l'ispirazione per scrivere Dopo il cinema, la radio e poi la morte? E volevo sapere, preoccupandomi, se è vero. Occhio che lo dice un personaggio improbabile. Non è detto che quello che dice Lopez, che è questo personaggio che dice questa cosa qua, sia il nostro pensiero. No, è un mondo in cui la fiction è al primo posto. È un dirigente come massima ambizione ha quella di occuparsi di fiction, insomma. Se fai caso, è la classifica rovesciata del ruolo della razionalità. Cioè, io credo che la radio sia al massimo il genere dove il cervello è più grosso, in un certo senso, perché è tutto basato sulle parole, sulla logica, l'argomentazione. Poi c'è il cinema, che è una via di mezzo, basato anche molto sull'emozione, e la TV, che è basato su la merda. Non mi veniva la parola, ma è quella, diciamo. Quindi naturalmente Lopez preferisce sguazzare nell'etame piuttosto che usare la testa. Io, signori, chiedo a tutti voi di crederci, anche agli schiavi. Non si faranno più le cose a cazzo di cane, no. E quindi, signori, dai che spacchiamo tutto. Le nostre voci in scena di oggi erano Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo, registi e ideatori di Boris. Ci ritroviamo lunedì con un altro appuntamento con Voci in Scena. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.